Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Pornar, parte seconda, lezione 21. Molti dei nostri studenti non padroneggiano la lingua ebraica, quindi ho cercato un libro kosher che voglio presentarti. È un libro molto speciale destinato a bambini ebrei piccoli che imparano in una scuola molto ortodossa, scuole dove il Talmud è già insegnato ai bambini piccoli. Crescono con esso. Io non sono cresciuto con quel libro, ma ho cercato un buon libro kosher. Con kosher intendo che è fatto in un modo che Ruach HaKadosh lo aveva fatto lui stesso. Con questo intendo che sento l'autore collegato al suo Santo Spirito, che gli viene dato dall'alto per farlo così. Questo libro, Hamasoret HaShalem, soddisfa i miei requisiti. L'autore di questo libro è un grande Rav, ovvero Rav Moshe Chaim Heshin. Era collegato all'Accademia Talmud di Yerushalayim, è morto nei primi anni 2000. La scuola era una scuola Talmud generale, con il nome Etz Chaim, l'albero di vita, e non hanno insegnato la Kabbalah, ma posso vedere il modo di preparazione anche se ha già centinaia di anni. Il modo che lo presentano e come si collegano. Sono stupito da questo libro. È molto meglio di tutti i corsi universitari in ebraico. Ho persino consigliato questo libro a coloro che hanno familiarità con la lingua ebraica. Questo non è solo un libro. Le lettere sono formate in modo così corretto e ordinato come se fosse stato fatto a mano. Le lettere hanno ancora le loro forme e angoli. Così belle, una volta che tutti avranno questo libro, lo useremo. Ho intenzione di usare i primi 10 o 15 minuti della nostra lezione per insegnare questo libro. Come? Proprio come fanno i bambini piccoli e il loro rabbino. Io leggo e dopo me lo ripeti. Io leggo e pronuncio le lettere in modo corretto e tu dopo le ripeti mentre guardi la lettera. Non è necessario scrivere qualcosa, devi solo guardare con gli occhi e vedere come è formata la lettera, come forma, e perché c'è ad esempio un punto nella lettera Bet. Nessun professore universitario capisce il significato più profondo del punto. Dagesh in ebraico capisce solo la lingua. Non pensare che questo sia sbagliato, è solo che non è sufficiente. Di tanto in tanto vedi sotto una lettera un punto o tre punti. Gradualmente ti porterò sul percorso cabalistico delle spiegazioni dei punti e allo stesso tempo imparerai l'ebraico. Cerca ad esempio la lettera Aleph. Questa lettera Aleph è così interessante che potrei dare un corso di 5 anni. Non io, sai cosa intendo. E non solo su questa lettera, ma anche sulla lettera Bet potrei dare un corso di molti anni. Un corso solo sulla lettera, ma non abbiamo tempo. Uno studio delle lettere include Bet, l'intera Kabbalah, non importa quale lettera, perché in ogni lettera puoi vedere e conoscere l'universo. tutti gli aspetti dell'universo sono nelle lettere esaminate da una certa prospettiva, perché collegate tra loro. C'è un motivo per cui la lettera Aleph è la prima lettera. Nello Zohar, quando arriviamo al Mamar, la sezione di Rav Amenuna Saba, vedrai un'accurata spiegazione delle lettere. È una storia potente e Rav Amenuna Saba dà una spiegazione profonda dell'alfabeto, i cui punti di forza sono nascosti nelle lettere, eccetera. Da quel momento siamo stati considerevolmente approfonditi nel libro delle lettere. È il mio consiglio di acquistare quel libro, non è costoso, ed è bello avere il tuo libro, così non hai bisogno di guardare nel libro del tuo vicino. È un tipo di libro di preghiera, quindi anche per coloro che padroneggiano la lingua ebraica è d'obbligo. Ancora una volta, l'autore di questo libro era in contatto con il divino. È un libro kosher. È interessante notare che solo i bambini da famiglie molto pie imparano questo libro. Chissà cosa è pio nel nostro tempo, ma i loro figli imparano da questo libro. L'autore di questo libro aveva il Ruach HaKadosh, che significa che era in contatto con il superiore. Il suo insegnamento era in qualche modo come è stato fatto per centinaia di anni. Quindi il mio consiglio è di acquistare questo libro. Foto del libro: 1. La prima pagina, 2. Le lettere, 3. Le lettere. Non è un obbligo acquistare questo libro. Se non vuoi acquistare il libro, devi solo sederti e ascoltare. Ma sappi che si andrà più veloce se puoi vedere quelle belle lettere. L'interazione sarà molto più forte se puoi vedere le lettere. Ad esempio, se guardo la lettera Aleph e sotto l'Aleph è un Kamatz, conosco il significato. Non che conosco il significato, ma faccio il collegamento, lo porto giù. La pronuncia di questo Kamatz Aleph è diversa, sebbene sia un Aleph, ma nella forza è diversa. La forza che accompagna Aleph è differente. Spiegherò perché un Aleph ha un Kamatz e un altro Aleph ha un altro segno o nessun segno. Noterai, sentirai e la tua progressione sarà impressionante solo guardando queste lettere e la pronuncia. E allo stesso tempo imparerai l'ebraico, non con la testa, ma direttamente dal tuo cuore e anima. Questo è un libro di apprendimento speciale? Questo libro è per tutti. Da un lato è un libro di apprendimento e allo stesso tempo è un libro di preghiera e in terzo luogo è un libro cabalistico. Diventa un libro cabalistico nel momento in cui dici ad alta voce le lettere. Ti aiuterò a vedere le relazioni tra le lettere e i punti di forza che sono nell'universo. Ti parlerò delle lettere e delle vocali. Avrà un grande impatto su tutti voi. Quello che accadrà è che vedrai e sentirai l'energia speciale di quella specifica lettera. E quando questo accade, un cabalista può sedersi per ore a guardare la lettera Aleph e creare dall'interno mondi. Non solo dall'interno, ma le conseguenze possono essere viste all'esterno. Come sai, nulla scende se non viene risvegliato dal basso. Colui che guarda con piena attenzione nelle lettere ebraiche sa come è costruito il mondo. La lettera Aleph, ad esempio, se guardi più da vicino a questa lettera, vedi una diagonale e due Yud. L'intero universo è in questa lettera. Quindi Aleph è la prima lettera dell'alfabeto. L'alfabeto inizia con Aleph seguito da Bet, Alphabet. Perché la lettera Bet è in questo modo, più tardi te lo spiegherò. Non c'è mai stata una religione che spiega questo. Quindi nessuna religione può portare salvataggio, salvezza. Tutto ciò che fanno è confortante per tenere tranquillo l'essere umano, ma è scritto in Zohar. E il Creatore ha guardato le lettere e ha creato il mondo. Naturalmente c'è una comprensione più profonda. Le lettere sono i moduli per l'intero mondo. Sono forze, punti di forza, perché ovviamente non ci sono lettere nell'universo. Ci sono solo punti di forza e questa forza è scesa nella forma di lettere. Nelle lettere puoi vedere i moduli, i punti di forza, le leggi dell'universo. Domanda: quante leggi ci sono nell'universo? Risposta: ci sono 22 lettere e queste 22 lettere sono le leggi dell'universo e in ognuna di queste 22 sono di nuovo 22 e vi sono in 22 infinite. Non pensate che dobbiate imparare tutte le leggi perché sono infinite. Non potete conoscerle tutte, ma più in alto venite, più le leggi si riuniscono come in una piramide. In basso c'è più varietà, più diversità, ma più in alto vieni, ti unisce a un punto. In un certo senso, il vero apprendimento della Kabbalah è l'apprendimento dei principi. Le leggi sono principi, principi spirituali. È detto: non c'è violenza nello spirituale, o nulla scende giù se non è suscitato da sotto. Queste sono leggi spirituali, e se le fai proprio tue andrà bene. Non ti perderai in tutte le informazioni importanti e così fredde. È detto: ama il Creatore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la capacità che hai. Ogni cosa scende giù per questo. Se puoi vivere in questo modo, ama il Creatore con tutto il tuo cuore e la tua anima e con ogni cosa che hai, non ti serve di più. Allora una legge è sufficiente. Ma se non sei capace, e chi è capace, hai bisogno di andare più giù, e più vai giù, più leggi devi adempiere. C'è una sola legge: ama il Creatore. Puoi capire questa legge. Più in basso vai, più rami ci sono. Questo si intende quando vedi un'immagine dell'albero di vita. Un albero invertito in cui le radici sono sopra e i rami sotto, considerando finora il libro delle lettere. Ora alcune parole sulla formula di salvataggio. Nelle ultime due lezioni ti ho dato l'inizio della formula di salvataggio. In un certo modo è per te, ma in realtà è per me. Lascia che ti dica com'è. Nell'ultima lezione ho avuto un contatto interiore e questo era necessario per sapere se avevo il permesso di continuare con lo Zohar. Ti dico questo perché è molto importante per te sapere che non ha nulla a che fare con me come una persona. Nessuno può dare la Kabbalah solo a parole e studiando il materiale. Necessariamente è dato il permesso. Chiaro? Ti ho già detto che avevo il permesso. So questo perché mi è stata data una forza speciale, così che io sappia, sì, tu puoi continuare. Ho avuto lo stesso sentimento nelle ultime lezioni. Mi è stato dato il permesso di continuare. Ho avuto lo stesso sentimento nelle ultime lezioni. Mi è stato dato il permesso di continuare. Non pensare che sia io a decidere e non pensare che quando ti viene dato il permesso, una volta sei pronto, perché non lo è. Ciò che ho ricevuto è stata una certezza, una conferma che il successo era garantito. Ma non è facile e alcuni di voi hanno notato che stavo lottando durante l'ultima lezione. Mi è stato dato, ma devo portarlo giù. Devo trasformare l'energia in parole. Così tu puoi capire. Ciò ha bisogno di forza. E non sapevo se avessi abbastanza forza per farlo. Cerca di capire. Non c'erano dubbi, perché se una volta hanno detto sì dall'alto, è sì. Dall'alto non cambiano la loro parola data, ma a volte uno ha bisogno di un impulso in più dall'alto, e quell'impulso in più mi è stato dato. Ecco perché posso dire: non studiare tutti i disegni perché abbiamo finito. Ho dovuto pronunciare tutte quelle parole e una volta arrivati nel posto giusto di Zohar ti darò una spiegazione più chiara. Ora mi è stato rivelato il modo in cui devo trasmetterlo. Non sapevo il modo come farlo perché non avevo un esempio. Sono l'unico che sta insegnando la Kabbalah in questo modo e così lo rende difficile. Dopo quella sera mi è stato dato in un modo più sottile. Quello che ti dico non è saputo e non c'è un piano. Tutto viene direttamente da sopra e può solo venire dall'alto quando c'è una domanda dal basso. Quando diventa difficile è il momento di chiedere e con profonda certezza so che la risposta sarà data. Non ha nulla a che fare con la conoscenza o con la sicurezza di sé. Chi può essere assicurato nella Kabbalah? C'è un rabbino che ha fiducia in ciò che sta facendo? Stiamo imparando Etz Chaim e il grande rabbino Vital era l'unico studente di Ari. Pensi che avesse fiducia? Molte volte diceva: non sono sicuro se il mio insegnante lo avesse detto. Era un uomo divino e tuttavia non dubitava, ma era attento e voleva rimanere puro. Devi sapere che nulla viene da me e perciò tu e tutti coloro che stanno leggendo questo devono essere attenti e vigili. Non pensate mai che io vi dica qualcosa. Ricevo solo dall'alto e cerco di trasformarlo in parole terrene. Quelli che sono qui e coloro che stanno leggendo questo, condividiamo tutti la logica divina. È abbastanza. Vorrei tornare allo Zohar. Tutto quello che ho cercato di fare è stato di darti un'impronta di ciò che significa la divina formula di salvataggio. Non ho detto ogni cosa, specialmente non sulla linea sinistra, su Kochma, ma per ora è abbastanza. Per ogni cosa c'è il posto giusto e il tempo giusto. Mi è stato dato e provo a trasmetterlo, ma non è il tempo giusto. Una volta che saremo arrivati nello Zoar, in questo posto, avrò la forza di dirtelo. Non è che io e te non siamo pronti, come ho appena detto prima. Per ogni cosa c'è il tempo giusto e il posto giusto. Come dice Chaim Vital in Etz Chaim, è solo per accarezzarti l'orecchio. È chiaro? Stiamo lavorando. La Kabbalah è un lavoro e niente di più. Se hai il desiderio di andare dentro di te, avrai successo. Se hai il desiderio di usare il tuo cervello, il tuo intelletto fallirà. Puoi piuttosto andare altrove. Tutto quello che hai bisogno di fare è andare dentro. Questo è il lavoro che ci è stato dato, andare dentro. Nulla di più, quindi, vai dentro e sentirai. Sperimenterai una profonda serenità, una profonda beatitudine. Mi piace continuare con lo Zohar. Siamo rimasti a pagina 6 nella colonna di destra. Alcune lezioni fa ho iniziato questa lezione e ho iniziato a parlare di qualcosa di diverso. Hai bisogno di avere pazienza. In un certo modo, lascia che tutte le lezioni siano una preghiera per te, che ti aiuterà. È qualcosa di molto speciale. Tutto quello che voglio è che lo Zohar ti dia forza e luce, e ricevere la forza dello Zohar hai bisogno di sintonizzarti con lo Zohar. Vedi lo Zohar come una nave e sei sulla nave. La nave si muove con le onde e tu sei il passeggero. L'unica cosa che devi fare è aprirti, allargare le braccia se stai in piedi con le braccia spalancate, come in una preghiera. Nessuno può vederti e tu sei lì e stai gridando aiuto, aiuto. Questo è l'atteggiamento che hai bisogno di avere dentro. Sappi che questo è un atteggiamento che aiuta. Certo, e penso che tu sappia già quando dico allarga le tue braccia, significa lo spirituale. Lo Zohar, il creatore, ama questo atteggiamento. Tutto quello di cui hai bisogno è di fare è renderti sottile, piccolo dall'interno, e con sottile intendo lasciare andare l'intelletto. Così puoi andare oltre l'intelletto e sperimentare un intelletto molto più elevato. L'intera arte della Kabbalah, qui si sta parlando molto, e anche nelle nostre lezioni notturne, ma una volta che tutti voi avete la fede, allora posso lasciarmi dietro tutte le parole e dire ciò che lo Zohar vuole che io dica. Se tutti hanno fiducia e sono pronti, posso darti la vera Kabbalah e non devo gettare frecce. Queste frecce stanno arrivando a me e devo fermarle e restituirle per spezzare l'incredulità. E certamente verrà il tempo. Ora è necessario, hai bisogno di costruire la tua fiducia, la tua fede nella forza creativa. Ma una volta che hai la fiducia, la fede ti sarà rivelata senza usare il tuo cervello intellettuale. Non hai bisogno del tuo cervello intellettuale e ovviamente ne hai bisogno. Ovviamente una persona con disabilità mentale non può fare nulla e tuttavia non abbiamo comprensione, non sappiamo quali sono i loro desideri e cosa significhino i loro sospiri. Come vedi, i loro movimenti in un certo modo possono essere una preghiera. Ciò che ci viene dato e di dare una preghiera e quindi venire a condizioni. Gradualmente ognuno di noi avrà più fiducia e una volta che questo accade possiamo andare avanti in modo veloce, ma per ora deve essere lento. Perché? Così la tua fede può crescere, mentre stai studiando la tua fede sta crescendo, va insieme. Deve andare insieme, altrimenti non ha senso. Tutto ciò che stai facendo ha senso. Non pensare diversamente. Quanto piccolo, quanto assurdo possa sembrare, ha senso. Ricordo come erano gli studenti quando entravano in questa stanza e posso vederli seduti ora. È stupefacente come sono andati avanti. Lo so questo perché posso dire sempre di più e balbettare di meno. La stessa progressione la posso vedere durante le lezioni notturne. Tutto ciò che dico non viene da me, passa attraverso di me, ma non viene da me. È stupefacente. Anche se non abbiamo letto Zohar, alle ultime due lezioni sono state grandiose. Era una conformazione per me e loro, i miei studenti, mi hanno dato quella conformazione. Stavo balbettando e un pochino impaziente. Dal mio punto di vista eri un po' povero. Non povero, ma dovevo concentrarmi al superiore e mi facevano domande che provenivano dall'intelletto terreno, mentre cercavo di connettermi con il superiore. Pertanto avevo bisogno di conformazione. Questa conformazione era necessaria per continuare e ho ricevuto la conformazione, quindi possiamo continuare, o in altre parole, siamo guidati da sopra. Ora non pensare, è guidato dal Signore e come funziona. Ho altre domande sciocche, perché queste non sono buone domande. Ognuno di questi usi è guidato dal Signore anche dai disabili mentali. Non pensare che sia esclusivo. La gente pensa che sia esclusivo, ma non lo è. Ognuno di questi usi è guidato. Ci sono persone che pensano che solo Gesù sia stato guidato, e per loro non è possibile, ma in questo momento tutti sono guidati. Hai solo bisogno di chiedere e ti sarà dato. Per me, ad esempio, ho contatto con il superiore durante l'intero giorno, qualche momento di più e altri momenti di meno, ma c'è ancora il contatto con il superiore. Questo puoi farlo anche tu e non pensare che sia difficile, perché non lo è. È come comporre un numero di telefono o toccare lo schermo del telefono cellulare. È così facile. Lui lo voleva e l'ha fatto facile per noi. Ad esempio, se ho problemi, ho necessità di andare dentro e fare ogni cosa che è in mio potere, e quando ho fatto ogni cosa e ancora sento di avere problemi, non dovrei comportarmi come un bambino che piange per sua madre o correre da uno psicologo o qualcun altro, no? Allora prendo il mio telefono speciale e compongo il numero del creatore. Questo è il modo di come funziona. Quando dico comporre il numero, intendo che mi concentro dall'interno e mi metto in contatto con il creatore. Combina, e sai una cosa? Lui risponderà sempre. Naturalmente, lui è disposto ad aiutarci proprio come un genitore aiuta il loro bambino. È dato a ciascuno di noi, non ho dubbi in questo. Ora continuiamo con lo Zohar, pagina 6, colonna destra. Lo Zohar parla ancora dei cinque Sfirot. Kahab nella testa, Keter, Kochmah, Binah, Tiferet e Malkut. Cinque Sfirot nella testa, un Parzuf. Questa è la parte superiore di un Parzuf. La seconda parte è nel corpo ed è Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet, ma ora sono chiamati cinque Chassadim. Guarda attentamente, Chesed, Gvura e Tiferet nel corpo sono come il Kahab della testa e il corpo è esteso con due Sfirot rimanenti, ossia Netzach e Hod. In questo vedi che nel corpo sono chiamati diversamente, ossia cinque Chassadim. Binah dà al corpo, non importa dove sia il corpo. Se senti il nome del corpo, sai che è Zeirampin dei dieci Sfirot. Il nostro apprendimento considera solo 10 Sfirot. E secondo a questo c'è una domanda sul perché non sono stati considerati tutti e cinque gli Sfirot che sono inclusi in ciascuno dei tre Sfirot Kahab, Keter, Kochmah, Binah, ma solo la Sfira Tiferet, che lei è ancora vista come una Sfira separata. Nella testa ci sono gli Sfirot Keter, Kochmah e Binah, e hanno la luce Kochmah. Nel corpo ci sono gli Sfirot Chesed, Gvura e Tiferet, e hanno la luce Chassadim. Nella terza parte, le parti più basse di un parzuf, sono gli sfirot di Netzach, Hod, Yesod e Malkut. In questa parte inferiore, la luce Chassadim può venire con un po' di splendore di Kochmah. Come si dice, Keter è una sfira, Kochmah è una sfira, Binah è una sfira e Tiferet è sei. Come mai? Tiferet ha in sé cinque sfirot più Yesod, sei. La sua domanda è perché solo Tiferet ha il numero di sei sfirot e perché non per esempio Keter? Come sai, Keter ha in sé cinque sfirot. Kochmah ha in sé cinque Sfirot e Binah ha cinque Sfirot. Perché non sono contati nel numero degli Sfirot? Questa è la sua domanda. Solo Tiferet ha sei Sfirot particolari contati nel numero di 10 Sfirot generali. Ci sono gli Sfirot particolari e gli Sfirot generali. Gli Sfirot generali sono 10, sempre. Gli Sfirot particolari hanno anche 10 o 5. Per esempio, Keter ha i suoi 10 o 5 Sfirot particolari, tutti chiamati Keter. I suoi Sfirot sono inclusi nel numero dei suoi 10 Sfirot generali. Lo spiega in questo modo. L'inclusione di sei Sfirot in Tiferet non ha assolutamente nessuna aggiunta, considerando il numero dei cinque Sfirot di base. Ci sono cinque Sfirot, ossia Keter, Kochmah, Binah, Tiferet e Malkut. Se ne menziona 10 in un certo senso, dice che Tiferet ha 5 più Yesod, 6. Con questo cerca di spiegarci che se menzioni 10 sfirot non significa che c'è un'aggiunta di qualità considerando i 5 sfirot di base: Keter, Kokhmah, Binah, Tiferet e Malkut. In un certo modo sono sempre 5, ma se ne dice 10 significa che aggiunge i 6 sfirot particolari di Tiferet, ma l'aggiunta non ha alcun significato in qualità. Più avanti approfondirà la spiegazione. Conclude questa frase con le parole che lei è ancora vista come una sfirà separata. Che significa l'aggiunta del particolare sfirot di Keter, Kokhmah e Binah. Li hanno tutti e 5, ma non c'è nessuna aggiunta considerando il numero degli sfirot. Questo succede solo nella sfirà Tiferet. Se aggiungi Keter a 10 sfirot, non aggiunge nulla, ma quando aggiungi Tiferet, allora c'è una differenza e in seguito spiegherà il perché. Nella testa ci sono Keter, Kokhmah, Binah, Zeyranpin e Malkut, tutti nella testa. Ogni sfirà ha questi 5. Ora, quando scendono nel corpo, diventa Chesed, Gvura, Tiferet. Puoi confrontare la forza di Tiferet con un corpo umano. Tiferet inizia alle spalle fino all'ombelico. Questa è la parte più importante di un parzuf. Ma il particolare Tiferet ha anche una testa, e questa testa contiene 5 sfirot, e deve scendere da questa testa al corpo. Deve andare sempre giù dalla testa al basso. Il corpo è la parte che ha più bisogno della luce, non la testa. La luce può essere nella testa, ma non è abbastanza. L'intenzione della Torah è di portare prima la luce alla nostra testa per costruire la forza, ma la stazione finale è il corpo, o in altre parole, la luce ha bisogno di ampliare la nostra consapevolezza e che accade nel corpo, ma non nella nostra testa. Questo è molto importante. Il corpo è l'area in cui puoi sperimentare, sentire il creatore, non nella testa. Se rimani nella testa, rimane teologia, teosofia o religione. Tutto bello, ma la luce ha bisogno di andare giù nel tuo corpo. Così puoi arrivare alla consapevolezza del creatore. L'esperienza del creatore è nel tuo corpo, nel tuo Chesed, Gvura e Tiferet. Gvura e Tiferet. La luce deve prima entrare nella testa, ma deve andare giù nel corpo. Questo accade in un modo speciale, ossia tramite le tre linee, e più specifico accade tramite la linea di mezzo. La luce scende attraverso la linea di mezzo a Yesod. Dov'è Yesod? Yesod è proprio sotto la tua cintola. Questo è il posto dove si può vedere il creatore. Ora puoi capire perché tutti gli esseri umani non riescono a vedere come trattare con Hashem. Parlano di Hashem, ma non c'è nessuno che lo sperimenti. Pronunciano parole considerando Hashem e hanno un bel sentimento, ma nessuno sente né sperimenta il Creatore. Come mai? Puoi sperimentare, sentire il Creatore solo nei tuoi Kelim, Questo è ciò che stai imparando qui. Impara dai tuoi Kelim, dal Creatore che è nei tuoi Kelim, e non come gli altri sentono. Il Creatore, Hashem, è dentro di te, all'interno di te, e il desiderio del Creatore è che tu sei, è che tu crei un contatto con Lui. Quindi devi andare dal tuo Chesed, Gvura e Tiferet, Chagat, e il prossimo passo è che la luce va giù attraverso la linea di mezzo. Guarda come sei costruito. Hai due gambe. Netzach è la tua gamba destra e Hod è la tua gamba sinistra. Ricorda che sei costruito nello stesso modo come i mondi spirituali. Ora, come puoi collegare quei due? Qualcosa di speciale è necessario, perché la luce non può scendere attraverso il corpo ed entrare a Netzach o Hod. Ascolta e leggi attentamente. Quando la luce Kochma scende attraverso il corpo a Hod, e sai che Kochma e Hod sono nel lato sinistro, è il peccato di Adam. Secondo le leggi dell'universo non c'era una struttura come quella. Hai bisogno di muoverti all'interno di quelle due linee, destra e sinistra. Quando cammini, muovi la gamba destra e poi la gamba sinistra. Devi fare questo movimento, altrimenti non puoi muoverti in avanti. Lo stesso nello spirituale. Tutto il tempo hai bisogno di fare un movimento da destra alla sinistra e viceversa. Questo è il lavoro interiore. Senza questo movimento entri all'inferno. Quando inizi a lavorare su te stesso, inizi a muoverti e in ogni generazione uno prima entra per la prima volta all'inferno perché deve meritare l'inferno. Sembra sciocco, ma un malfattore non merita l'inferno. Deve meritarsi l'inferno, altrimenti non può purificare se stesso, non può crescere. Ma chi non fa nulla, tutto il tuo lavoro è di portare giù la luce, e questo può avvenire solo attraverso il tuo Yesod. Tiferet è il corpo. Un terzo di Tiferet è sopra la cintola e due terzi di Tiferet è sotto la cintola. Tiferet è separato e prima devi fare il Tiferet totale, prima di poter entrare in Yesod. E una volta che sei entrato in Yesod, puoi vedere il Creatore. Tutte le chiese e le sinagoghe e qualunque cosa c'è, ti raccontano storie meravigliose, ma non questo, quanto importante è entrare nel tuo Yesod. Sai dov'è il tuo Yesod? Hai bisogno di prenderti cura, essere vigile sul tuo Yesod, perché il tuo Yesod è tra le tue gambe. Stai vigile sul tuo Yesod, che non getti via tutti i punti di forza nascosti nel tuo Yesod. E questo è lo stesso per uomini e donne. Se vegli sul tuo Yesod, puoi vedere il Creatore e ricevere tutta la luce. Solo da Yesod puoi riflettere la luce più potente. La luce ti penetrerà e andrà al tuo Yesod. C'è stato un apostolo, penso che sia stato Paolo, a paragonare la luce con una spada tagliente. Così come una spada tagliente, la luce ti squarcia attraverso il tuo Yesod e per questo puoi vedere il Creatore. Non pensare che ci sia un altro modo, perché non c'è. Molte storie sono state raccontate e vengono raccontate. Non pensare che sia sbagliato. Puoi fare qualunque cosa che ti piace, ma devi essere vigile al tuo Yesod. Il tuo Yesod ha bisogno di essere puro perché hai bisogno del tuo Yesod per purificarti. Dove inizia la purificazione? La prima azione si svolge nella tua testa. Hai bisogno di purificare i tuoi pensieri. Il prossimo passo è la tua bocca. Tutto il parlare che fai, sii consapevole delle parole che dici. E il passo successivo sono i tuoi occhi, seguiti dai desideri più pesanti di odio e invidia. Quando segui questa rotta, scendi lentamente per entrare finalmente nell'area più intima, l'area del tuo Yesod. Non preoccuparti se non lo capisci. Gradualmente sentirai quello che dico. L'intera Torah parlava di questo argomento. Anche Gesù, Yeshua, parlava di questo argomento, ma nessuno lo aveva sentito, studiato da lui. Yeshua ha parlato di Yesod, ma la Chiesa non ha capito. Certo che non potevano capirlo, come mai? Era ebreo e portò se stesso all'integrità. I non ebrei hanno provato ad interpretarlo, ma hanno la santità di un ebreo? Hanno ascoltato e accettato Yeshua, ma ciò che lui diceva è che nessuno lo ha mai voluto seguire. Ne hanno fatto una storia, ma anche Yeshua parlava solo di Yesod. Purifica te stesso e nient'altro. Yeshua parlò agli ebrei e non al mondo. Agli ebrei disse: purifica te stesso, iniziando dal tuo pensiero, seguito dal tuo Chagat, fino ad arrivare al tuo Yesod. Il mondo intero crede al suo nome, ma nessuno di loro capisce le sue parole, né comprendono il messaggio delle sue parole. Naturalmente lo capiscono un po', hanno imparato qualcosa del messaggio d'amore, ma anche se uno non capisce, ha un grande impatto sul mondo. Yeshua parlò di Yesod, della posizione di Yesod. Parlò dicendo: vedo il Creatore, vedo il Padre, e puoi vederlo solo se vai al tuo Yesod. Guarda la religione, vedi la storia, ascolta i predicatori. Anche nel Vaticano qualcuno lo capisce? Capiscono il suo messaggio? Assolutamente no. Tutte brave persone che stanno facendo bene, ma ne hanno fatto la religione. Essi servono, possono correggersi, possono andare al loro Yesod. Giusto in questo momento c'è la divulgazione di abusi sessuali su minori e anche quelli che sono onesti non possono andare al loro Yesod. Se approfondisci nella Kabbalah, sappi che devi essere pronto ad incontrare il tuo Yesod. Coloro che si tengono impegnati con la religione non arriveranno mai al loro Yesod. Ecco perché dico che in nessuna religione si può arrivare alla realizzazione, alla completezza. Tu puoi venire a compimento. Tu che stai imparando e studiando la Kabbalah puoi arrivare alla realizzazione. Qual è il significato della realizzazione? Adempimento significa che sai che c'è salvezza e per di più che senti la salvezza dentro di te e non che la salvezza è fuori di te. Esistono storie bellissime su Gesù, ma infantili come fiabe. Chi erano le nazioni del mondo? Erano barbari e naturalmente, nonostante la religione, si muovevano in avanti. Hanno creato la civiltà, e anche in questo tempo è buono, ma devi sapere che hai bisogno di continuare a lavorare su te stesso. Non è abbastanza credere nei kelim di Yeshua o nei kelim di un cabalista o altro. Hai bisogno di credere nei tuoi kelim, solo allora puoi venire all'esperienza di Hashem. È chiaro? Non è mai abbastanza parlare di questo argomento, perché è impossibile per me darti la fede. Devi costruire la fede, e se ti manca ancora la fede, hai semplicemente detto, è il tuo problema. Se ancora credi nella religione, non importa quale religione, sappi che tutti loro sono infantili e proprio come un bambino hanno bisogno di crescere. Così anche tu devi crescere nella tua religione. Vedi la religione che hai come un fondamento, per questo deve venire. Significa che hai bisogno però di rompere la religione e costruire sempre più kelim. I kelim sono necessari per te per crescere. Se puoi lavorare in questo modo, allora anche la tua religione è buona, perché ora usi la tua religione come un fondamento per costruire i tuoi kelim. Ricorda che senza kelim non si può sperimentare Hashem. Hai bisogno che i tuoi kelim arrivino all'esperienza di Hashem, non i kelim di una religione, ma i tuoi kelim personali. Capito? Puoi avere una religione, ma devi sapere che oltre alla tua religione devi costruire i tuoi kelim personali. Se costruisci i tuoi kelim personali, poi un giorno entrerai nel tuo Yesod. Una volta vicino al tuo Yesod, sai che devi essere molto attento. Cosa intendo con questo? Con questo intendo che stai attento nel parlare e pensare. Non solo parlando e pensando, ma com'è il tuo agire? Il tuo agire è in accordo con il tuo pensiero, il tuo parlare? Ad esempio, se hai diversi partner, passi da un partner all'altro. Sappi che questo blocca l'entrata al Creatore. Supponiamo che hai un amante in una città e un amante in un'altra città. Ci sono persone che hanno un amore in ogni città. Sappi che questo blocca la connessione con il Creatore. Sono molto rigido in questo perché è molto importante. Oggi lo so, ma avere un partner è più che abbastanza. Anche nel giudaismo? Assolutamente. So che ci sono ebrei. So che ci sono ebrei dell'est che hanno più partner e il rabbino orientale li ha presentati agli ebrei arabi, ma devi sapere che non va fatto assolutamente. Metti questo nel tuo cuore. Avere un partner è abbastanza. Supponiamo che tu sia divorziato o che il tuo partner sia morto. Certo, hai un nuovo partner, ma non due partner allo stesso tempo. Hai capito? Puoi imparare la Kabbalah giorno dopo giorno, ma se trascuri o ignori quelle regole, significa avere una relazione accanto al partner legale che hai. Tutto l'apprendimento sarà per niente. Due relazioni contemporaneamente ti porteranno sofferenza. Stai imparando la Kabbalah perché hai il desiderio di purificarti e la Kabbalah ti purificherà. Gradualmente avrai una relazione. Supponi ora di avere 4 o 5 relazioni. Sarà sempre meno, lentamente si ridurrà a 3, 2 e finalmente avrai una relazione. E c'è di più. Ho appena detto di stare attento nel parlare. Ciò significa che non si spettegola su donne o uomini. Non spettegolare, non parlare degli altri, perché se fai così tutti i portali dello spirituale si chiuderanno e il divino ti lascerà, e quando questo accadrà nulla potrà più aiutarti, eccetto forse un'infermiera psichiatrica o un'infermiera sociale, ma la luce divina non può più venire. Come conseguenza non puoi diventare indipendente. Come ho detto prima, non ho assolutamente nulla contro la religione. Io rispetto anche la religione, rispetto anche lo sciamanesimo, perché anche questo è una forma di espressione del popolo. Possono essere forze nere, ma è un modo di espressione e anche loro vengono alla luce. È solo uno spreco di tempo. Se vieni ad imparare con noi, e il nostro obiettivo è venire in questa incarnazione per la nostra realizzazione, allora metti tutti quei consigli nel tuo cuore. Come ho detto molte volte, non sono contro ebrei, cristiani o altri, e non contro il sesso. Tutto quello che dico è: stai attento, vigile. Puoi fare qualsiasi cosa, ma devi stare attento, perché il luogo di Yesod è un luogo molto delicato. Se rendi questo luogo offuscato, e non intendo il sesso ma dall'interno, i punti di forza relativi con Yesod, se macchi questo luogo, cosa vedi? Certamente non il Creatore, perché sarai tagliato fuori da lui. C'è una storia su un sommo sacerdote al tempo del Tempio, che la notte prima di Yom Kippur lo tenevano sveglio. Il giorno successivo avrebbe guidato il servizio, quindi lo hanno tenuto sveglio tutta la notte. Quello che hanno fatto non lo so, ma hanno fatto di tutto per tenerlo sveglio. Perché? Cosa potrebbe succedere se si addormentasse? Potrebbe avere un'eiaculazione, un sogno erotico, risate, nevrotico, erotico e lo stesso. È chiamato un sogno bagnato, e se quello dovesse accadere, non sarebbe in grado di vedere il volto del Creatore il giorno successivo. Forse ti sto spingendo, ma è così importante. Yesod è così delicato. Se il sommo sacerdote si fosse inquinato, gli era proibito entrare nel Tempio. Potresti pensare che questo non appartenga a questo tempo. Nessuno ne parla, nessuna chiesa, nessuna sinagoga. Vanno in una sinagoga e ricordo, non ero ancora coinvolto nella Kabbalah, che come è successo a me, sono solo umano. Ma poi andai alla sinagoga in un lunedì o giovedì, perché anche in quei giorni veniva letta la Torah, e mi rifiutai di andare alla sinagoga. Qualcosa nel profondo dentro di me disse che era sbagliato andare in sinagoga, mentre non c'era alcuna legge contro di essa. Come mai? Abbiamo perso la forza. Dalla costruzione del secondo tempio, verso il 600 avanti Cristo, era già permesso, perché l'uomo aveva già perso la sua forza. Non posso enfatizzare abbastanza com'è importante questo. Vuoi fare progressi? Vuoi andare avanti? Quindi guarda i tuoi punti di forza. Sorveglia il tuo Yesod in modo che la luce possa entrare in te. Il primo passo è la testa, Keter, Kokhma e Binah, seguita dalla parte centrale. Nel mezzo ci sono cinque Sfirot: Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach e Hod. Chesed, Gvura e Tiferet hanno preso il posto di Keter, Kokhma e Binah, perché i loro punti di forza si sono abbassati. Netzach è come Tiferet e Hod, è come Malkut. Netzach è come Tiferet e Hod è come Malkut. Ancora una volta, da sopra la luce Kokhma entra dal corpo, il comune Tiferet, dalla testa alla cintola è l'area di Chassadim, e Chassadim non ha bisogno di Kokhma. Binah e Zerampin non hanno bisogno di Kokhma, ma la parte più bassa, Netzach, Hod e Malkut, hanno bisogno di Kokhma, ma la luce Kokhma potrebbe non entrare se non ci sono Chassadim. Solo quando si ha Chassadim, la luce Kokhma può entrare. Se qualcuno tira la luce Kokhma dal lato sinistro, perché l'ultima volta è stato un po' strano, la linea sinistra è Kokhma, ma quello che intendo è questo. L'alta Binah è connessa con Kokhma e con il corpo, e se tiri giù Kokhma direttamente dalla linea sinistra al tuo Yesod, leggi solo e apri te stesso. Gradualmente verrà. Quando dico che se qualcuno tira giù il puro Kokhma, significa che non va nel mezzo, non attraverso Yesod, verso in basso, ma rimane nel lato di Kokhma. E quello è il peccato di Adam ed Eva. Questo è possibile. Naturalmente questo è possibile. Pensi che le persone non possano farlo? Naturalmente ci sono persone che lo stanno facendo in questo modo. È per quello che ricevono una sbornia, ricevono tutta la miseria. Anche psicologicamente le persone lo fanno in questo modo. Bambini di 9 anni già lo fanno. Può essere, ma ciò non significa che loro. Da un lato è meglio perché hanno le esperienze. Fisico intendo, ma tu parli di energia spirituale, ovviamente. Parlo di entrambi. Prova a vederlo in questo modo. Non puoi dividere questi due. Certamente lo spirituale è il più importante, ma non puoi separare il materiale dallo spirituale. Quindi anche il materiale può essere giustificato. Per esempio avere una moglie o un uomo, e naturalmente molti di noi hanno una moglie o un uomo, ma tutti guardiamo gli altri, dagli angoli dei loro occhi guardano ancora quegli altri. Capisci cosa intendo? Questa è la Kabbalah. Ma negli occhi non è pericoloso, non per te e non per la tua religione. La religione ti dice qualcosa su questo? No. E tuttavia c'è il comandamento non desidererai. Ancora una volta, puoi avere un partner e allo stesso tempo guardi ogni donna o uomo, o stai sognando ad occhi aperti. Questo è assolutamente sbagliato, e sappi che nulla può aiutarti, nemmeno la Kabbalah. Stai imparando la Kabbalah, e tuttavia stai guardando gli altri. Naturalmente hai dei sentimenti, la tua pressione sanguigna aumenta, anche se hai l'ultimo respiro, hai questi sentimenti, ma c'è una differenza tra il desiderio e l'atto. Tutti i desideri che hai provengono dall'alto e dici, mi sono corretto e tuttavia ancora e ancora questi pensieri sono lì. Guardo fuori dalla finestra e sento qualcosa. Pensi che Yesod ti ha lasciato? Il tuo Yesod non ti lascerà mai, ma tutto è su quello che fai prima che esso arriva al tuo Yesod. Tutto inizia nella tua testa e lì devi raccogliere i tuoi pensieri, fermarli direttamente e radunare le forze per non guardare, non parlare. Già quando parli di donne e uomini, tu conosci il peccato. Qual è il peccato? Inquini il tuo interiore, la tua realizzazione individuale. Ti sei turbato da questo discorso. Tutto quello che sto dicendo è questo. Presta attenzione in ogni cosa che fai. Tutto quello di cui parlo è l'interno, ma devi sapere che non c'è separazione tra interno ed esterno. Quindi ferma l'agire. È così importante che prendi in considerazione ciò che è dentro di te. Diversi pensieri entreranno nella tua mente ed è necessario raccoglierli, reagire in tempo e non rispondere a qualsiasi immagine. Quello che intendo è essere esigente, non accettare ogni cosa, veglia su te stesso. Nessuno può aiutarti solo te stesso. E se ti manca la forza di aiutare te stesso, allora prega per chiedere la forza per rimanere sul sentiero corretto, chiedere la forza per essere diverso. Nessuno può sperimentare la luce se non si è discesi alla profondità del più profondo ed è giunto al suo Yesod. Non riesco a esprimermi abbastanza, ma gradualmente capirai cosa intendo. Tutto quello che stai facendo spetta a te, ma diventa consapevole di ciò che stai facendo. Nessuno può aiutarti, solo te stesso. Hai bisogno di superare tutti i pensieri impuri e le azioni impure. Non è un divieto, tutto ciò che faccio è per aiutarti a diventare esigente e che sceglierai un obiettivo superiore invece di rimanere nell'inferiore. Hai capito? Ad esempio l'amore. Così tante persone parlano di amore, amano tutti. L'amore per tutti non esiste. Ricorda questo. L'amore per tutti non esiste. Tutte le tue idee è tutta commedia. L'amore esiste? Cerca l'amore dentro. Sappi tu solo, puoi riuscirci in questo quando hai contatti con il Creatore. Solo allora puoi sperimentare l'amore. Sai cosa intendo? Tutta la gente che sta parlando di amore, che non è amore, è puro interesse personale. Tutto l'amore che senti per un altro è al 100% interesse personale. Ami tua moglie, la tua gente, il tuo paese, la tua regina. Ami il tuo gatto e ami il mondo intero. 100% interesse personale. Anche se sei religioso e ami Gesù o tu ami, non lo so. L'unica cosa che so è il 100% di interesse personale. Forse ti manca la comprensione, ma accetta le mie parole perché questo è l'unico aiuto che ottieni. Sai che sarei dovuto andare oltre, ma non posso. Sento che hai molte domande, che c'è molta resistenza. L'amore è la volontà di essere aperti per il Creatore. Per cercare l'amore in un altro, è possibile sperimentare Kelim di un'altra persona? Sappi che è impossibile. Ricorda questo e non agire, non pensare di poter amare un altro, perché tale amore non esiste. Non è mai esistito, non esiste e non esisterà mai fino all'arrivo del Messia. Anche la parola amore per sé non è una buona parola. Nessuno di voi sa cos'è l'amore di per sé. L'interesse personale conosci, ma non l'amore per sé. Puoi solo odiare te stesso. L'amore è possibile solo quando ricevi l'amore dalla luce. allora puoi sentire l'amore dentro. All'interno degli uomini non c'è amore. Se pensi ancora, ovviamente tutto il mondo sta parlando di amore, ma devi sapere, è ancora un discorso infantile. Naturalmente era necessario nei primi tempi in cui l'Europa era barbarica. L'Occidente ha la sensibilità, ma non le correzioni. È impossibile per una persona europea correggersi perché vuole sapere. Il tuo intelletto e il tuo pensiero ti intralciano. Cerca di superare il tuo pensiero. Non solo colui che viene dall'Europa, lo stesso per colui che viene dall'Est. Anche lui pensa di essere alto, ma è profondo nella sua miseria. In un certo senso è più vicino all'adulterio. Un occidentale ha una moralità e gioca con essa, ma chi viene dall'Oriente non ha limitazioni. Appena sente il suo sangue salire, agisce. Tutto ciò che devi fare è essere pratico. Porta la Kabbalah nella pratica. Devi adattarti alla Kabbalah nella tua vita quotidiana, perché non puoi separare l'uno dall'altro. Anche se non puoi purificare il tuo corpo, puoi essere vigile in ciò che mangi e bevi. È impossibile correggere il corpo, ma puoi prenderti cura del tuo corpo. La mia gente pensa che il corpo possa essere corretto, ma non lo è. Hai bisogno di ricordarlo perché è cruciale. Puoi scriverlo da qualche parte, non posso correggere il mio corpo e non c'è necessità di correggere il corpo. Ciò che devi correggere è la tua anima e con la tua anima intendo i tuoi sensi di consapevolezza. Se correggi dall'interno, sappi che allo stesso tempo anche il tuo corpo sarà corretto, ma non è necessario concentrarti sul tuo corpo. Sorveglia il tuo corpo e non dire «Posso ignorare il mio corpo perché non posso correggerlo». Da un lato non puoi correggere il tuo corpo, ma ciò non significa che puoi ignorare il tuo corpo. Non hai bisogno di essere concentrato sul corpo e tuttavia devi essere attento. Tutti gli atti che fai devono essere in accordo, un accordo tra la tua mente e il tuo corpo, capito? Ciò comporta anche la sessualità. La tua sessualità deve essere in accordo su ciò che pensi e su come agisci. Ovviamente ognuno di noi ha la sua immaginazione, ma devi sapere che nessuno può fuggire. Puoi andare in un monastero, ma ovunque vai, porti con te la tua fantasia. Con la tua immaginazione, riguardo alla sessualità, solo per la semplice ragione che questo non deve essere corretto. È necessario per la sopravvivenza dell'umanità. Perché i cattolici sono così ossessionati dal celibato? Gli ebrei non lo sono perché sono la parte interiore. Un ebreo può avere una moglie e allo stesso tempo essere coinvolto con la divinità. Ed è anche così che deve essere sposato. Deve avere una moglie e naturalmente alcuni sono sollevati da questa legge, ma i cattolici hanno decretato da sopra che un prete non può essere sposato, non può avere una moglie. Sull'amore dici che ogni cosa è amore per se stessi. Non ho detto quello, ho detto che non c'è amore qui sulla terra. Voglio dirti la verità com'è dall'alto. Molte volte ti ho detto che non do la mia opinione. Comunque ti capisco, ho avuto gli stessi pensieri riguardo l'amore, a tutta la miseria, l'ho passato, ma il significato è questo. Qui sulla terra c'è solo una cosa, e cioè la legge, la quale è certificata. Scrivi questo e ripetilo, altrimenti sarai nei guai con la tua immaginazione, e la tua immaginazione ti terrà lontano dal divino. Non voglio che perdi tempo. Nel nostro mondo c'è la legge terrena. Una legge è sufficiente, e l'essenza di questa legge è minimizzare gli sforzi per massimizzare il vantaggio. Questa è la legge terrena e non ha nessun collegamento con i mondi divini. Pertanto, se qualcuno è collegato con questo mondo, sa di avere una sola legge, una legge globale, e da questa legge sono tutte le altre leggi, e questa unica legge è di minimizzare gli sforzi per massimizzare il vantaggio, l'interesse personale nella sua forma più pura. Se l'uomo ha bisogno di un partner e questo è puro interesse personale. Quando ha 15 o 16 anni si innamora, non c'è discussione, ma devi sapere questo. È un sentimento infantile e tutti dovrebbero superarlo, raggiungere il pieno sviluppo. Lui proietta la sua sessualità su un altro. Ancora una volta, non c'è assolutamente amore qui sulla terra. Che cos'è l'amore? E perché abbiamo il sentimento che amiamo un'altra persona? Naturalmente ogni cosa è sensoriale. La forza che riceviamo indirettamente e pensiamo che è amore. I primi segni d'amore arrivano da me quando vedo che sono lontano dal Creatore. Questo è l'inizio dell'amore. È decisamente diverso da quello che pensiamo. Nel momento in cui ricevi il sentimento di oscurità, inizi a sentire i punti di forza dell'universo. Sono così alti e mi sento vuoto e solo. Questo è l'inizio del bagliore della luce da una distanza. Non amore, non la cosa che facciamo e chiamiamo amore. Ti senti sollevato, ma non è amore, e tutti devono passarci. Pensi davvero di poter amare il tuo paese? Non puoi amare la tua patria. Certo che devi fare le cose per la tua terra, ma l'ami? Ovviamente, se ci fosse una guerra, Hashem proibisca, dovrai combattere nonostante tu stai imparando la Kabbalah. E se il tuo paese dice, certo che devi obbedire, ma ciò non significa che lo stai facendo perché è la tua patria, perché quello non esiste. L'affetto esiste, ma non l'amore. L'amore inizia solo quando si arriva al sentimento di essere in accordo con le leggi dell'universo. Non è tuo, ma senti che stai venendo in accordo con le qualità delle leggi dell'universo. Questo è il segno che inizi a sentire l'amore dentro. L'amore per sé significa egoismo, ma non voglio usare questa parola, perché l'amore per se stessi presuppone che tu puoi amare te stesso, e quello è impossibile. Metti questo nel tuo cuore, perché è molto importante. Sarebbe grande che tutti potessero amare se stessi. Come sarebbe meraviglioso, chi può amare se stesso è santo. Amare te stesso significa che hai portato te stesso in accordo con le leggi dell'universo. Non mi sono espresso correttamente. È sperimentare l'amore dentro. La religione ci dice che l'uomo ha l'amore, ma questo non è vero. Nessuno ha l'amore dentro, nemmeno Yeshua. Yeshua era onesto, disse che non amava, ma loro non capivano le sue parole. Lui disse: dal Padre posso sentire l'amore. Ma lui non aveva l'amore dentro di sé. Non c'è modo. Lui si è portato in accordo con la luce, quindi ha potuto sentire suo Padre, e quello è l'amore di cui parla Yeshua. Inteso? L'uomo è una scatola vuota senza amore. Prima di tutto, non è possibile amare un altro finché non è sentito l'amore dentro. Ecco perché si dice che all'uomo è permesso sposarsi quando ha 20 anni, perché allora puoi presumere che abbia sentito l'amore. Solo quando puoi sentire l'amore dentro di te. Non c'è più tempo per lo Zohar e va bene lo stesso. Sento che hai domande, quindi devo dare delle risposte. Voglio aiutare ognuno di voi, non importa quale sia la vostra religione. Io ti aiuterò con l'aiuto della Kabbalah per dare una visione nella vostra religione. Non pensare mai che ti condanni e che voglio che tu abbia un'altra religione. È assolutamente sbagliato. Voglio che tu approfondisca la tua religione, che tu abbia più esperienza considerando la tua religione. Non importa quale sia la tua religione, voglio che tu rimanga fedele, che senti i tuoi kelim, perché è quello di cui hai bisogno di sperimentare e non la storia. Dimentichiamo lo Zohar e approfondiamo l'argomento dell'amore. Voglio che tu sappia cos'è l'amore, così puoi agire in modo giusto. Ho detto che non c'è amore, solo interesse personale, che significa il desiderio di ricevere. Questo è l'essere umano in questo mondo, e finché un essere umano ha a che fare con il suo interesse personale, non può sperimentare l'amore. Nella percezione del nostro mondo non c'è amore. Ma non rimarrà così. Se arriva un momento in cui un essere umano sente qualcosa, e questo lo chiamiamo il punto nel cuore. Questo punto nel cuore è il punto di dare. Ora lui vuole dare. Che cosa ci farà? In un certo modo questa è la sua man, la sua preghiera o richiesta, e la porta sopra al Creatore, alla Binah dei suoi 10 Sfirot. O in altre parole, la porta al lato inferiore del suo grado più alto, che è lo stesso. Ognuno di noi può sentire il Creatore dentro. Non è possibile parlare del Creatore, perché nessuno può. Questo non ci è stato dato, e quando parli del Creatore, sappi che è speculazione. O senti qualcosa dal Creatore, o non parli del Creatore, e speri che puoi sperimentare. Questo è il primo movimento. Il primo principio è: nulla scende se non è risvegliato dal basso. Per prima cosa devi chiedere l'amore, altrimenti l'amore non verrà da te. L'amore è un'esperienza che a te viene come una conseguenza, perché ti sei portato in accordo con le qualità delle leggi dell'universo. In questo vedi che devi fare il primo movimento. Devi ricominciare da capo, tutto il tempo che tu. Le persone dicono: nessuno mi ama, perché sono solo? Perché non ho un partner? Dipende ogni cosa da te. Sei tu che devi fare il primo movimento. Se non puoi fare questo movimento, sappi che sei ancora sotto l'influenza dell'interesse personale. Ecco perché sei solo. Se hai il desiderio di un partner, allora fai qualcosa. Organizza le cose per incontrare un partner. Ci sono così tanti modi. Se ti sentirai meglio, è qualcosa di diverso. Forse il desiderio è troppo grande. Per prima cosa vuoi avere il vero amore da qualcun altro. Qual è il vero amore? Ancora una volta, l'uomo conosce solo l'interesse personale. Più tardi ha il desiderio di sapere cos'è l'amore e di ricevere l'amore. Quando ha questo desiderio, sa che questo desiderio è come man, è come una preghiera, e poi dall'alto scende la luce nella stessa misura del desiderio, come era la richiesta. Quando ricevi luce dal Creatore, significa che senti l'amore dentro il Creatore. L'amore che è dentro il Creatore e non l'amore per il Creatore. In ebraico è scritto Be'avta et Hashem Elokeha Bechol Levavcha Uvechol Nafshecha. Significa ama Hashem tuo Elohim con tutto il tuo cuore, con tutta la tua nefesh. È anche scritto Be'avta Lereacha Kamocha, che significa e ama il prossimo tuo come te stesso. Questo non intende che deve amare il suo vicino. Ora presta attenzione, perché voglio finire questo argomento. Ciò che intendeva Yeshua non era diverso da quel piano del Creatore, era quindi un movimento da te a sopra. Il primo atto è cercare l'amore nel Creatore. Da dove viene la luce? La luce viene dal Creatore e non da un essere umano. Una volta che senti questo, puoi andare oltre al punto nel tuo cuore, all'amore interno, e quello è la costruzione della linea di sinistra. Sperimenti l'amore, ma non è tuo. È un'esperienza e non qualcosa da sé. Perché è l'esperienza nella sinistra? Questa è una buona domanda. Una volta dentro, senti il lato destro e sinistro e il tuo lavoro è in mezzo. Il risultato è la linea nel mezzo. Questo è l'amore che sperimenti dentro. È chiaro? La linea di mezzo è come l'amore, il tuo amore interiore, ma ancora non puoi amare un altro. Questo è il momento di imparare che è dentro l'amore. Se hai abbastanza forza nei tuoi kelim, nell'esperienza dell'amore dentro di te, puoi, ancora una volta, non amare te stesso, ma l'amore dentro. Tutto quello che stai imparando qui è imparare l'amore dentro, l'esperienza dell'amore interno. Non stai imparando l'amore per te stesso, non ce n'è bisogno perché il mondo è egoista. Sei venuto a queste lezioni per sperimentare l'amore interno. Sei venuto per imparare come costruire il luogo in cui puoi sperimentare l'amore interno. L'amore dentro. Questo è ciò che stiamo facendo qui, sperimentare l'amore dentro il Creatore e non l'amore per il Creatore. Non sarai mai in grado di sapere come sono i kelim del tuo vicino. Puoi solo sperimentare i tuoi kelim, quindi è dentro, dentro il Creatore. Sappi che il Creatore è dentro di te. Dall'interno c'è lo splendore della luce Ein Sof, quindi è dentro di te e dentro il Creatore. Una volta che hai costruito la forza della sinistra, una volta sperimentato l'amore dentro, tu puoi andare a destra. La destra è il luogo dell'amore dentro, un altro, e quella è la linea nel mezzo. per me c'è solo il lato destro. Ognuno di noi presta attenzione, perché se hai la piena comprensione posso continuare con la Kabbalah. Ognuno di noi ha il lato destro e sinistro, e per mezzo del suo lavoro può arrivare nella linea di mezzo, l'amore dentro. Ma per me, se guardo qualcun altro, ho bisogno di vedere il suo lato destro, o in altre parole, devo guardare dal suo lato destro. Giusto significa chassadim, chiaro, e sbagliato se lo guardo dal lato sinistro. Devi guardare un altro essere dal tuo lato destro, dal tuo chassadim. Chiaro? A sinistra c'è tutta la miseria e i problemi, quindi non usare il lato sinistro. Una volta che sei arrivato alla linea nel mezzo, hai l'amore, ma non puoi guardare con la tua linea di mezzo, perché c'è lo splendore di Chochmah dentro i Chassadim. Questo non è il modo di guardare gli altri. Guarda solo agli altri dal tuo lato destro. Usa i tuoi Chassadim mentre stai guardando gli altri. Se fai altrimenti, sappi che è sbagliato. Perché? Ogni cosa che è fuori è il Creatore. Non importa che è opposto a te. Può essere un ebreo, un cristiano o un Hare Krishna, non importa. Fuori dalla mia pelle c'è il Creatore. Prendi nota di questo. Più tardi avrai la comprensione, l'esperienza in ciò che hai appena letto. Ti dico la verità, non io, sai cosa intendo? È vietato usare il lato sinistro quando si guardano gli altri. Questa è una legge spirituale. Anche il cristianesimo ne parlava. L'unica cosa era che ne avevano fatto una storia. Non credere nella storia, ma sentila dentro di te. Finché credi nella storia, non puoi purificarti. Non agire mai nel fare bene, e mentre stai facendo il bene pensi diversamente. Non fare mai questo. Qual è stato l'errore che hanno fatto considerando l'interpretazione di Gesù? Che cosa hanno sbagliato? Non sbagliato, dopo ti darò una risposta. Ora rimaniamo con il tema di amore. È una buona domanda, ma il tempo è passato. Guarda cosa è successo. Ora puoi sperimentare un po' d'amore dentro di te, e questa è la linea nel mezzo. Non puoi guardare da questa linea ad altri. Perché? La risposta è perché hai un po' di splendore di Chochmah, e quella è una parte speciale per te. La metà è in relazione con le tue correzioni. È chiaro? Non ti è permesso di proiettare le tue correzioni su un altro, perché quello non è kosher. Ti è solo permesso guardare agli altri per mezzo dei tuoi chassadim, la tua misericordia. Chiaro? In questo puoi vedere che non c'è differenza nella religione che hai. Questa è una legge spirituale. Tutto ciò che è fuori di te è il Creatore. Quindi guarda gli altri in questo modo. Un ateo è un ateo, considerando se stesso, ma considerato il Creatore, lui è buono. Tutto quello che vedi fuori lo vedi, è perfetto, perché questa è la verità. In questo modo inizi a vedere l'amore dentro l'altro, e non che senti l'amore per l'altro, perché quello è una pia illusione, e questo non è ciò che il Creatore vuole. Questa non è la realtà. Se hai amore per un'altra persona, significa che c'è ancora interesse personale. Quando puoi vedere l'amore dentro di lui, significa che riconosci le qualità del Creatore dentro di lui, anche quando lui è un ateo, perché ogni cosa al di fuori di te è il creatore. Se l'uomo potesse vedere questo modo, naturalmente si ha bisogno di punti di forza. C'è un detto russo: ognuno loda la sua propria mucca. Anche se la mucca è magra, infelice e malata, la tua mucca è migliore, è la migliore. Prova a vedere l'amore dentro l'altro. Tutto quello che leggi riguarda te. Parlo solo della tua osservanza, di come osservi gli altri, e quando arrivi al punto puoi vedere l'amore dentro di lui, puoi fare l'ultimo passo, cioè per collegare l'amore che vedi in lui con il Creatore. Questo non è grande? Ogni cosa è dentro al Creatore. In questo modo puoi effettuare il contatto con il Creatore e l'hai fatto. Hai collegato l'amore che hai visto dentro l'altro con il Creatore e non hai idolatrato la persona, perché non c'è ragione di farlo. Creatore, Binà dai miei 10 Sfirot, parte inferiore del mio grado superiore. Amore. È l'esperienza dell'alta luce dovuta al contratto delle loro proprietà, al contatto delle loro proprietà con le leggi dell'universo. Guarda questo disegno, cosa vedi? Vedi una croce e non è sbagliato. Guarda bene come lo faccio. Ti mostro in modo cabalistico cos'è l'amore, così puoi avere una comprensione profonda. Potete vederlo? È chiaro? Domande? Entra dentro invece di attaccarti a ciò che non è adatto a te. Chiaro? Leggi questa lezione ancora e ancora, così puoi vedere la storia, la tua storia. Deve diventare la tua storia, e quando succede ti sarà rivelata un'enorme intuizione. Avrai la comprensione e saprai come tutto si adatta. Questa lezione è diventata una lezione cabalistica molto pratica. È bello avere lo Zohar, ma è bene ogni tanto deviare dal testo. Questa è la Torah orale. Dove lo prendi questo? Riesci a trovare questo nello Zohar? Non lo trovi in nessun luogo. Questo può succedere solo perché fai domande. È così importante avere domande, buone domande. Qual è una buona domanda? Breve. Questo è molto buono. Deve essere breve. La domanda deve ferirti. Guardati intorno. Guarda cos'è l'amore. È miseria. È dolore. Il dolore deve provenire dal punto più profondo del tuo cuore. Il dolore significa, lo puoi capire? Il dolore deve venire da questo mondo. Non importa da dove provenga il dolore. L'unica cosa che devi sapere è che la tua domanda deve provenire dal dolore più profondo e non dal sapere. Se fai domande dalla mente, non darò una risposta, la ignoro. Non pensare mai che sia personale, per l'amor del cielo. Se non rispondo, questo è il motivo. Una volta che le tue domande provengano dal profondo, dalla tua mancanza, allora è una domanda. Chiaro? Una buona domanda ha una buona risposta, significa che inizi a sentire la formula del salvataggio. Non puoi farlo con la testa, con il tuo pensiero. Qui lo lascio, ora lo lascio riposare. Se vuoi acquistare il libro, come menzionato all'inizio, va bene. Lascia che questo libro diventi il tuo libro di preghiera. Shalom.